La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Evaristo Casonato è un musicista, suona l'oboe, è molto talentuoso. Gira diversi teatri, suona nell'Orchestra Sinfonica del Friuli. Tutto va bene, almeno nell'apparenza delle cose, ma niente sta andando veramente nel verso giusto. Evaristo è stanco, non riesce più a suonare a Cottimo, preparare concerti senza sapere se si andrà in scena, studiare partiture in pochi giorni. Ha perso il gusto delle cose, quella bellezza che permette di godersi la vita. È la prima volta che questo accade nella sua vita. E questa è la storia di Evaristo Casonato dall'inizio. Io nel 2007 ho lasciato completamente la musica. All'epoca io suonavo in orchestra, suonavo con gruppi, insegnavo in scuole di musica, dirigevo anche un coro, per la verità. E ho chiuso con totalmente, e sono andato in cerca di lavoro, quindi agenzie interinali, ho sparso la voce e poi grazie a Dio ho trovato lavoro, ecco, fortunatamente avevo la patente C, per cui ho trovato lavoro come autista in un'impresa edile, pur non avendo esperienza, e poi man mano l'esperienza me la sono fatta, perché dopo aver fatto i carichi da un cantiere all'altro, mi fermavo e cominciavo a dare una mano, e questo mi ha consentito pian piano di farmi l'esperienza, aiutando quelli che avevano più esperienza di me, ecco. Ma perché ha deciso di sconvolgere così completamente la sua vita? Cioè, lei era un primo oboe o clarino? Non ho capito bene. Oboe. Suonavo, in realtà in quel periodo facevo il secondo, ma è indifferente, ecco, questo, ma suonavo il corno inglese quando c'era bisogno. Perché? Perché ero, come si può dire, saturo, ecco la parola giusta, saturo, correre dalla mattina alla sera, da una parte all'altra, per una instabilità economica incredibile, e non ne potevo più, ecco, cioè, però è una cosa, come dire, personale. Io ho reagito in questo modo, in quel modo lì. Cioè, ho detto basta. Se il percorso suo professionale fosse andato diversamente, lei continuerebbe a suonare in questo momento, se avesse avuto riconoscimenti o stabilità, per esempio? Infatti, la stessa domanda che mi ha fatto il suo collega, probabilmente sarebbe stato diverso. Cioè, avessi avuto una stabilità, sarebbe stato diverso, perché anche con l'orchestra, non so se ha letto, o fa la storia dell'orchestra, sì. È una cosa terrificante, cioè ogni anno veniva tutto messo in discussione, lavoreremo, non lavoreremo, vivremo, non vivremo. In ogni caso a me è andata bene, perché io nel 91 avevo fatto il concorso per i conservatori, per cui un anno fa ero su un tetto, stavo ristrutturando un tetto, e mi è arrivata una chiamata da un conservatorio per una supplenza, per cui ho ricominciato. E in questo momento ho un'altra supplenza fino al 31 ottobre, sono in prossimità del passaggio in ruolo, quindi c'è stato questo percorso, ecco, nella mia vita. Cioè, quindi lei adesso lentamente si sta riavvicinando alla musica? Non lentamente, sono decisamente riavvicinato, più adesso dal punto di vista didattico, che amo moltissimo, poi per carità, cioè mi piace tantissimo suonare, però ecco, quello che trovo adesso è che c'è una dignità diversa, sono molto contento di quello che faccio, ma capisce bene che ho un lavoro, ho una dignità professionale, sono trattato in un certo modo, ma non solo economicamente, non so se riesco a spiegare, sono sì. Cose un po' particolari, rendo l'idea. Sì, si capisce quello che vuole dire, cioè lei dice non è solo una questione di precarietà, è questione anche di quanto vieni considerato nel tuo lavoro, quindi quanto tempo, la qualità diciamo di quello che viene richiesto e tutto il discorso che si fa sulla cultura proprio in generale. Esatto, esatto, esatto, proprio così. Cioè, io adesso ho un lavoro degno, sono pagato per questo lavoro il giusto, mentre prima correvo come un matto, ma non c'era una risposta equivalente al mio impegno e alla qualità della mia, di quello che io davo. Ed è quello che capita ai miei amici, in sostanza, quelli che ancora fanno parte di questo gruppo, ecco. Perché lei comunque è rimasto in contatto ovviamente con le persone con le quali suonava, continua a sentirsi e che percorsi certo. Sono stati fatti da loro nel frattempo? La loro è una situazione davvero complessa, perché ci sono degli amici con oltre 40 anni, con figli, moglie, i quali in questo momento sono senza lavoro, quindi è una cosa davvero triste. Poi la cosa triste è che la loro professionalità non è riconosciuta, cioè c'è di fatto, ma politicamente, perché politicamente vengono distribuiti i soldi, i fondi, non è riconosciuta questa qualità. Senta, lei quando era ragazzo, quando era giovane, ha fatto il conservatorio mentre studiava, cosa si aspettava dal futuro? Questa è una bella domanda, non mi aspettavo in realtà qualcosa. Ho sempre vissuto con molto piacere, ecco, con molta gioia, quello che mi arrivava, quindi non so, mi chiamavano a suonare, ero contento perché mi chiamavano a suonare, suonavo con persone, programmi belli, difficili, impegnativi, ed ero contento di questo, ecco, quindi non è che avessi fatto dei progetti particolari, cioè, per me era bello quello che mi accadeva, ecco. Però studiare ha studiato tanto, insomma, per arrivare a diventare certo. Così bravo, così in fondo, nonostante la fatica dell'ultimo periodo, il periodo che, come diceva lei, l'ha saturato, in parte le è stato riconosciuto il suo talento, perché comunque è stato chiamato a suonare nelle orchestre, insomma, è riuscito a fare un percorso. Sì. Ma secondo lei la situazione nell'ambito musicale classico è precipitata negli ultimi anni oppure lei ha un ricordo di quando è iniziato, diciamo, questo tracollo? Ma allora, che sia precipitato è fuori di dubbio. Non saprei dire quando. Io mi ricordo molto chiaramente negli anni 90 funzionava, e più o meno attorno al 2000 è stata fondata in Friuli l'orchestra regionale, quasi in controtendenza con quello che avveniva nel resto d'Italia, e questa è stata un buon momento, ecco, per noi qui, è andato bene, ecco. Così Evaristo, il ragazzo che amava la musica, dice basta. Dice basta alla musica che lui tanto ama e a Cividale del Friuli, in provincia di Udine, comincia a fare il muratore. Sembra una storia triste, la storia di un amore fallito, quello tra un musicista e la musica stessa. E invece, dal distacco, nascerà una nuova passione. La prima volta. A vida tão bela me chama pra dançar, pra samba. Questa è una storia che batte, come la vita stessa, tocca il fondo e riemerge. Questo è un tuffo nella profondità di un'esistenza che a un certo punto sente la spinta per tornare verso l'alto, per tornare a respirare. Evaristo Casonato, di professione musicista, deve smettere di fare il musicista e mettersi a tirar su muri dritti. Non è un esercizio zen, è proprio una scelta di vita. Evaristo, a 40 anni suonati, sente che deve cambiare, che la sua vita così non va, e lo fa nel modo più semplice: smette di fare ciò che sa fare e impara a fare altro. E lei ha avuto proprio quella che si dice la folgorazione, nel senso, quando lei ha deciso di smettere, c'è stato proprio un giorno preciso che si ricorda in cui ha detto basta, mollo tutto, ciao, arrivederci? Sì, sì, me lo ricordo benissimo. Era un venerdì mattina e ero solo a casa, e mentre mia moglie era andata al funerale di sua cognata. E io in quel momento ho preso la decisione, anche grazie a questa morte, perché mi ha fatto toccare che vivessi una volta sola, e non si può buttare la vita in questo modo, appunto in quel caso, a correre come pazzi per poi che cosa? Per stare male, perché non ero contento, ecco, non stavo bene. E poi anche questa scelta mi ha portato a riequilibrarmi, cioè tanti anni passati a produrre qualcosa di intangibile, e poi ho avuto bisogno invece di produrre qualche cosa di concreto, di fisicamente tangibile. Questo mi ha portato che adesso io insegno e vivo la musica con molto più piacere, ecco, con molta più serenità. Ma lei quanti anni aveva quando ha deciso di fermarsi? Nel 2007 ho deciso, quindi ne avevo 42. E come l'ha comunicato all'orchestra, ai suoi colleghi? Ma in quel momento non stavamo suonando con l'orchestra, era sospesa l'attività, quindi diciamo che è stato tutto un percorso io ho portato a termine gli impegni che avevo in quel periodo. Avevo dei concerti con amici dell'associazione, avevo un concerto con un organista, quindi gli impegni li ho portati a termine, no? Però poi ho detto, guardate, da dopo l'estate, perché erano i primi giugno, io non ci sono più. Quindi, cioè, non ho lasciato in braghe di tela nessuno, ecco. Però ha riconquistato, facendo muri, lavorando sulla parte pratica di sé, tutta una parte che aveva in qualche modo dovuto mettere a tacere, e lentamente adesso è felice? Felice è una parola molto grossa. Molto più sereno, sì, e riesco a gioire delle cose che mi cascano in questo momento. Poi quando insegno, per me è particolarmente bello, cioè, vedere nelle lezioni come si trasformano questi ragazzi, come grazie al lavoro che facciamo insieme, come loro riescono ad essere più contenti del loro suonare. Per me è una soddisfazione incredibile. Enjoy the power and beauty of your youth. No, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. La storia di Evaristo l'abbiamo raccontata perché è la storia di un paese, il nostro. Un paese che deve smettere di mortificare gli artisti, i giovani e chi ha voglia di fare. Le possibilità sono tante, la vita è bella e quando siete spaventati, cantate e non perdete tempo con l'invidia. A volte sarete in testa, a volte in coda. Questo è quanto suggerisce il finale dello stupendo film The Big Kahuna. Prima di farvi sentire questo monologo, volevo ringraziarvi per l'ascolto e rinnovarvi l'appuntamento per domenica prossima alle 13.30. Scriveteci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Potete riascoltarci in podcast. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli. Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava.